Mare bagnasciuga, carezza che ti bagna, fiocco di neve cade come piuma sopra la montagna, torrente d'acqua da bere con le mani, parco cittadino, bella ragazza che gioca con i cani, ospitalità, dolce benvenuto, trasformare in melodia lo strascico di uno starnuto, salute, niente medicine, con il mio aeroplano sorvolare sulle tue colline, atterrarti morbido sopra le tue guance, rubo da Mogol quella metafora delle tue arance, ascoltare il padre eterno che improvvisa jazz, vento sulle foglie che frusciando caccia via lo stress, starfene con il faccia anzi, fino al lunedì. Fare niente, dolce rimandare, stare con i piedi penzoloni guardando il mondo girare, andare andare, aspettare dolcemente l'ora di mangiare, guardare l'erba crescere, l'acqua evaporare, tranquillamente all'ombra di una fresca brezza farsi accarezzare, dare forma tonda a bolle di pensieri che scoppiano nell'aria non appena si fa troppo seri o troppo pesi, starsene leggeri, trasformare le ore in mesi, come foglia lungo il fiume dentro la corrente, dolcemente arrediti, starsene con in faccia fino a lunedì. Dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei procili, confondersi con il profumo d'erba di infiniti aprili, starsene così come uno stacchi c'ha da fare, con il volante tra le mani e il ritmo che ti fa dondolare, niente male, dondolare, sentirsi come sale, silenziosi dentro un grande mare, e starsene con in faccia sì, fino a lunedì. Rimandare, dolce far vacanza senza viaggi da organizzare, agenzie turistiche, sudori d'aeroplano, dogane in pizzerie sempre più uguali, più si va lontano, vivere sul mare, cambiare l'atmosfera, respirare ossigeno ed espirare pura primavera. Respirare.